Ricordo che siete in ascolto con App, questa è una puntatona dedicata al Festival Jazz di Saalfelden che avverrà la prossima settimana, come ho annunciato più volte ormai questa sera, dal 28 al 30, queste le date per quanto riguarda il main stage. E che è numeroso, sono i soliti grandi musicisti che non mancano in questi eventi. E come non mancherà questo un nome importante, questa volta, questo evento, il 36esimo, ricordo, è ovvero quello di Steve Coleman. Vi ho fatto un regalo, vi ho fatto ascoltare un live di 20 anni fa, ecco come suonava appunto Coleman con i Five Elements, una formazione che l'ha reso celebre appunto con questo quintetto, ma non solo, ultimamente, se così avverrà appunto a Saalfelden, sta portando con sé un'altra formazione, quindi altri musicisti, per quanto riguarda il Steve Coleman and the Council of Balance. Questo ascolteremo e vorrei fare una puntata dedicata più avanti a questo artista, proprio rifacendo, riproponendo appunto i vari lavori fatti con la Five Elements e poi ovviamente molto ancora ad ascoltare con quello che è questa ultima invece realtà. L'album era un live, sì, quello che abbiamo ascoltato era un estratto live registrato a Parigi nel 95, come dicevo appunto 20 anni fa, e si chiama ancora ovviamente Curves of Life. Quello che invece adesso andremo ad ascoltare, come già anche qui avevo preannunciato, è l'ascolto dell'ultima traccia di questo lavoro della pianista francese Yves Orisset, ovvero Deux pas sur la neige, due passi sulla neve, uscito per l'etichetta portoghese Clean Feed. E proprio a Saalfelden presenzierà la Risser degli Shortcuts, questi eventi staccati a quello principale, ma non comunque ovviamente di secondo livello, tutt'altro. Dicevo appunto prima che questo lavoro della pianista ha riscosso un successo straordinario per gli adepti ai lavori, ovviamente, però è da considerare comunque un lavoro che ha a che fare sia col minimalismo, anche se vogliamo, quella traccia che andremo a ascoltare adesso. Sarà più che evidente questo aspetto, però anche ovviamente all'improvvisazione più radicale, sempre comunque con una grande sensibilità al tocco e anche alla soluzione ritmica. A Saalfelden la Risser non sarà da sola, verrà accompagnata da una batterista, ovvero Yuko Ojima, e quello che andrò ad ascoltare sarà per me molto inedito, però non è la prima volta, anzi ho ascoltato anche la nostra in un trio, diciamo che classico, piano, batteria, contrabbasso, solo che le soluzioni sonore sono tutt'altro che classiche, un capolavoro assoluto che vorrei presentare qui più avanti, appunto. Però intanto concentriamoci su questa lunghissima traccia di oltre 36 minuti, di una bellezza sublime, di questo lavoro, che porta il titolo di La Neige sur la Ville. Registrazione è avvenuta nel settembre 2013. Quindi un saluto che vi faccio fin da subito quasi, ma vabbè, ci risentiremo comunque per le battute finali e vi auguro intanto un buonissimo ascolto. Thank you. Thank you.

E quindi ho approfittato di un contrasto che avevo sotto mano, sempre degli All Include, una formazione norvegese che avevo già presentato con Satan in Plain Clothes, uscito da poco per la Clean Feed, che sarà protagonista di una presentazione ufficiale al Saltfelden Jazz Festival. È praticamente di questo che abbiamo parlato stasera. Parlato, abbiamo ascoltato più che altro autori che presenzieranno in questo festival. Abbiamo ascoltato qualcosa che suoneranno proprio la prossima settimana, ovvero quella del 28, 29 e 30 di agosto, e quindi saranno presenti molti autori che ascolteremo nella seconda parte, quindi il resoconto che farò di questo festival il prossimo settembre, per l'appunto. Apro un attimo a Franco, che è arrivato, che fra poco appunto ci sarà Sabbia Mobili. Un attimo solo. Eccomi, quindi appunto Franco è arrivato, ho preso un po' di spazio visto che insomma si sa con l'attività che svolge, la strada da fare, insomma il tempo ci vuole un po'. E quindi parlavo di questo festival che avverrà la prossima settimana e che a settembre appunto farò un resoconto di quello che andrò a sentire. Abbiamo ascoltato qualcosa, la lunghissima traccia che abbiamo ascoltato prima della straordinaria, formidabile pianista francese, la Yves Risset, che per quanto riguarda il festival avrà uno spazio dedicato agli shortcuts, questi eventi diciamo, collegati al festival diciamo, più rappresentativo, quello che avverrà nel Palazzo dei Congressi di Saalfelden. La nostra suonerà in compagnia di una batterista, ovvero Yuko Oshima. Ebbene, la Clean Feed ci siamo ascoltati da questa etichetta portoghese. Ci siamo ascoltati Despo sur la Neige, la traccia più lunga, appunto La Neige sur la Ville, di una registrazione del 2013. E quindi torneremo ancora sulla Rissé con le sue collaborazioni, e quindi ritornerò ancora a parlare di questi All Include. Abbiamo ascoltato quindi poc'anzi una traccia che apre invece l'album precedente del 2012, Airstrike, quindi un bel pezzone free che fungeva appunto da contrasto con le risposte invece più minimali della Rissé a quello che è un jazz contemporaneo legato molto anche all'improvvisazione, si sa. Ebbene, tanto ancora si potrebbe parlare, tanto ancora ne parlerò. Il prossimo evento, la prossima appunto parte dedicata a questo fenomenale festival, uno dei più rappresentativi e importanti che abbiamo qui in Europa e non solo. E quindi vi lascio con Sabbie Mobili, quindi con Franco che è già qui, e saluto quindi Nicky d'Andrea, che è stato partecipe di quel live set che abbiamo realizzato a Murlis, ringrazio appunto gli organizzatori, saluto anche loro e quindi un abbraccio a tutti quelli che insomma mi sopportano da anni. Ciao a tutti e alla prossima, quindi buon ascolto con Sabbie Mobili.